L'idea di Lame Trame è nata qui a Maniago da un gruppo di ragazzi appassionati di gialli che mi hanno contattato e mi hanno spiegato la loro idea. L'ho trovata geniale proprio a partire dal titolo e abbiamo cominciato e abbiamo subito ottenuto un certo successo. Perché questo abbinamento lama e trama? Lama perché a Maniago, Maniago è la città delle coltellerie, famosa in tutto il mondo per i coltelli, trama perché il racconto è sempre una trama e in questo caso storie gialle noir dove le armi sono armi da taglio. Tra l'altro, in pochissimi anni il premio è diventato subito un premio prestigioso che ha dato vita, ha dato spazio anche a nuovi talenti. Ci ricorda qualche talento che è nato, che è cresciuto con la Lametrama? Beh, Nicola Verdi è stato il primo vincitore e dopo aver vinto la Maitrama ha pubblicato tre romanzi importanti. Rosario Palazzolo ha vinto, credo, il terzo o quarto anno ed è ora un drammaturgo, scrittore di un certo successo. Poi abbiamo invece altri anni, abbiamo premiato degli esordienti anche assoluti. Io ricordo che un anno ha vinto una persona che aveva scritto il suo primo racconto per l'occasione e era talmente bello che ha vinto. Oggi presentate il nuovo bando di Lame Trama, quello del 2010. Ci sono delle novità? D'altro canto è un premio che si sta evolvendo nel corso degli anni, sono state aggiunte delle nuove sezioni. Sì, abbiamo aggiunto nel corso degli anni sezioni riguardanti il monologo teatrale, il cortometraggio cinematografico, la tesi di laurea e il radiodramma, che si alterneranno al racconto. Per quest'anno faremo il racconto e faremo il radiodramma. Cos'è un radiodramma? Un radiodramma è una storia che viene letta e sonorizzata in modo tale da sembrare un piccolo film senza immagini. I vincitori di quest'anno quando verranno scelti? Verranno scelti dalla giuria entro settembre e le premiazioni saranno fra ottobre e novembre.